GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Gorizia, maglia nera d'Italia per crescita del PIL, ma incidono le consegne Fincantieri. Il Friuli Venezia Giulia non eccelle. Vigili del fuoco, in un'estate di super lavoro diventano ancora più pesanti le carenze di organico. Psicofarmaci, continua a salire l'uso, più 3% rispetto al 2021, mentre la media italiana è in calo. Partita dal Verdi di Pordenone, nel segno di Mahler, la tournée dell'orchestra giovanile fondata da Abbado. 10 DASPO per i tifosi triestini e quelli gemellati di Varese, responsabili degli scontri di maggio a Seregno. Calcio al via il campionato di Serie A per l'Udinese, il fischio d'inizio domani sera al Friuli contro la Juventus. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Amicoli. Partiamo con i temi dell'economia. Friuli Venezia Giulia, settima regione in Italia per crescita del PIL quest'anno, il dato migliore a Trieste, il peggiore nell'Isontino. Gorizia, maglia nera d'Italia. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha elaborato le stime di crescita realizzate a luglio da Prometeia, l'Isontino è la peggior provincia del paese, con una crescita praticamente nulla nell'anno scorso, più 0,04%, e addirittura meno 2,35% sul 2019, ultimo anno pre-pandemia. Un dato che tuttavia non allarma. In queste statistiche su un territorio piccolo incidono moltissimo le consegne e la contabilità di Fincantieri, tra diretto e indotto addirittura al 50%. Nel 2023 il Friuli Venezia Giulia in genere non eccelle, nonostante il turismo, più 1,15% di ricchezza prodotta, settima regione nazionale, nettamente avanti rispetto alle regioni del sud e dietro di pochi decimali nei confronti di Lombardia, Veneto e Trentino, che guidano la graduatoria, ma sono sempre sotto l'1,3%. Paragonando il PIL prodotto con il periodo pre-Covid, abbiamo recuperato 2,19 punti, mentre Toscana, Liguria e Val d'Aosta, tra le regioni del nord, sono ancora abbondantemente sotto. Secondo CGA, i cali previsti sia nei consumi delle famiglie che dell'export sono bilanciati da investimenti fissi, costruzioni e turismo, consentendo all'economia di rallentare ma di non andare in rosso. Marginale sul triennio invece l'incidenza dell'inflazione sulla ricchezza prodotta. Andando a vedere i singoli territori, leader in Friuli Venezia Giulia e Trieste con il più 1,54%, undicesimi in Italia. Segue a ruota Udine con un solo centesimo di punto in meno. Detto di Gorizia, sorprende il dato negativo di Pordenone, che cresce pochissimo, più 0,51%. Tra il 2019 e il 2023 la crescita nazionale è stata del 2,1%, quella regionale praticamente del 2,2%. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È un autunno con tante incognite, quello che si profila per l'occupazione e il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia, lo dice la CGL della regione. Incognite legate sia alla complessità dello scenario geopolitico ed economico mondiale, sia a grandi questioni locali irrisolte come il dopo Varzi, la Trieste e le scelte strategiche di Electrolux in merito al futuro di Porcia e degli altri siti italiani. Nel manifatturiero la principale criticità è quella delle ore di cassa integrazione, che per il quinto mese consecutivo hanno fatto segnare un aumento rispetto al 2022. A luglio sono arrivate richieste per 1.250.000 ore, in crescita del 16% rispetto a un anno fa. Legno arredo, industria chimica, della plastica, del vetro e soprattutto carta ed editoria sono i comparti che fanno segnare gli incrementi più marcati, mentre nella meccanica il ricorso agli ammortizzatori resta in linea con i livelli dello scorso anno. Sulle crisi industriali in atto, da Bagnoli a Porcia, dalla CGL arriva l'appello alla politica regionale e nazionale e alle organizzazioni imprenditoriali ad accelerare ed intensificare le trattative con gli interlocutori più credibili. Se il lavoro complessivamente tiene, la corsa dell'inflazione ha contribuito ad aggravare l'emergenza redditi. A soffrire di più, dice il segretario regionale William Pezzetta, sono i settori maggiormente esposti al dumping dei contratti pirata, in particolare nel terziario. I sindacati dei vigili del fuoco richiamano l'attenzione sulle carenze di personale che affliggono il corpo di soccorso, soprattutto in questo periodo di vacanza in cui la sicurezza dei villeggianti richiede un impegno ancora più assiduo. Tempo di ferie, ma non per i vigili del fuoco che devono limitare, posticipare e in molti casi rinunciare alle vacanze. Seppur con dati diversi, tutti i sindacati evidenziano carenze che stanno diventando via via più problematiche. La CISL, con Vito Romaniello, evidenzia un sottorganico di 150 unità su una pianta base regionale di 941 effettivi. Inoltre, un'età media sempre più avanzata che ora si attesta sui 50 anni. Renato Chittaro della CGIL. Gli eventi atmosferici degli ultimi anni hanno ancora una volta portato alla luce la carenza del personale vigilfuoco nella nostra regione. Nei quattro comandi su 915 unità che dovrebbero essere operative, attualmente ne mancano circa 270 unità. Per fare un po' di chiarezza, nel settore amministrativo mancano 52 unità. E proprio per questo 41 operativi sono stati distolti dal soccorso tecnico urgente per poter dare una mano agli amministrativi e poter dare una risposta più celere a tutte le richieste che le imprese, gli enti aspettano per i loro progetti. Damian Nacini del sindacato Conapo. In regione Friuli Venezia Giulia mancano circa 180 unità nelle varie qualifiche dei vigili del fuoco. Voglio far notare la carenza di personale al comando di Udine e la sempre più spessa chiusura del distaccamento di Cividale. È un distaccamento molto importante per le valli del Natisone, perché se pensiamo solo che una squadra da Udine deve partire per il punto più alto delle valli del Natisone, ci vogliono circa 50 minuti. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Dorisio, già a Pordenone, ha disposto 10 provvedimenti di DASPO della durata da 1 a 8 anni nei confronti di 10 tifosi appartenenti alle tifoserie Aurora Pro Patria e Triestina, che in occasione dell'incontro San Giuliano City Triestina valevole per i play-out di ritorno del campionato di Serie C del 13 maggio scorso nello stadio di Seregno, hanno acceso petardi, fumogeni e fuochi artificiali, accompagnati da insulti e cori riservati alla tifoseria rivale, fino al tentativo di scatenare una vera e propria rissa al termine della gara vinta dalla Triestina e che ha sancito la retrocessione del San Giuliano, con tanto di scavalcamento delle balaustre e invasione di campo per cercare lo scontro frontale. Le forze dell'ordine avevano dovuto effettuare varie cariche di alleggerimento, anche lanciando lacrimogeni. Gli ultras della Triestina erano supportati da quelli dell'Aurora Pro Patria, società calcistica con loro gemellata, arrivati numerosi dalla provincia di Varese. Dei 10 DASPO, 6 sono stati emessi nei confronti dei supporter varesini, 4 a carico di quelli triestini, 6 di loro sono recidivi. Diamo uno sguardo al traffico, che è molto sostenuto ma fisiologico rispetto alla giornata. Sulla rete autostradale della regione, alle prese con la prima vera ondata di controesodo. Dopo una prima parte di mattinata senza grossi problemi, il traffico si è gradualmente intensificato, in particolare alla barriera di Monfalcone Est, dove le code sono cresciute fino a raggiungere alcuni chilometri in direzione Venezia. Ma c'è stato un movimento anche in senso opposto, con i vacanzieri impegnati invece a raggiungere le località di villeggiatura e che hanno formato rallentamenti sempre al casello dell'Isert. Congestionata anche la viabilità ordinaria nelle vicinanze dell'autostrada per gli automobilisti che cercavano percorsi alternativi. Dopo l'Isert la situazione si è gradualmente complicata attorno a mezzogiorno, anche in corrispondenza dei restringimenti di carreggiata dopo la Tisana e in uscita autostrada verso Lignano. Domani ancora una giornata da bollino rosso, con l'Isert di nuovo tra i principali punti critici. I mezzi pesanti oggi non possono circolare fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Il meteo, ora il cielo è sereno sulla regione. Alle 11 c'erano 29 gradi a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi. A Udine Gorizia 29 gradi, a Pordenone 30. Sul Piancavallo 21 gradi, a Sappada e a Tarvisio 23 gradi, a Forni di Sopra 24, a Tolmezzo 26 gradi. Sul Monte Lussari 18 gradi, sul Monte Zoncolan 20 gradi e 5 decimi. A Grado e Lignano 28 gradi e mezzo, temperatura del mare 27 gradi. E vediamo le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. In montagna sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità. Le temperature saranno in lieve aumento e farà caldo. Venti a regime di brezza, Borino di sera a Trieste. È stato pubblicato l'avviso di indizione di gara per i lavori di riqualificazione del piazzale della Transalpina e di parte delle vie Caprin, Foscolo e Luzzato, il cosiddetto Tridente, nel comune di Gorizia e nel comune sloveno di Nova Gorizia, in vista dell'evento della Capitale Europea della Cultura 2025. Il valore stimato dell'investimento è di 2.565.000 euro, finanziato per parte italiana e per parte slovena con fondi europei, fondi statali e comunali. Le candidature vanno presentate attraverso la piattaforma telematica del GECT entro il 1 settembre. Nel progetto ci sono ripavimentazione, conservazione del mosaico centrale, piantumazione di nuovi alberi, integrazione di un elemento acquatico. La Transalpina non è una semplice piazza, ma il simbolo fisico europeo della vittoria del dialogo sull'odio, della pace e sulla guerra, ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, aggiungendo che tutto l'intervento valorizzerà l'elemento centrale della piazza, l'edificio della stazione che, ha concluso Ziberna, tanta parte ha visto della storia del Novecento. Aumenta l'uso degli psicofarmaci in regione. Secondo l'ultimo report dell'AIFA, fenomeno in crescita aggravato dalla pandemia. Aumenta il consumo di psicofarmaci in regione. Secondo i dati dell'ultimo rapporto OSMET dell'AIFA sull'uso dei farmaci in Italia, in Friuli Venezia Giulia si è passati da 47 dosi ogni 1000 abitanti nel 2015 a 64 nel 2022, con un più 3% rispetto al 2021, a dispetto della media italiana che invece segna per lo stesso periodo un lieve calo. È l'aumento più alto in Italia dopo Bolzano, che raggiunge il più 3,5%. Francesco Innocente è presidente di Federpharma Pordenone. L'evidenza ci porta a dire che c'è stato un incremento sicuramente negli ultimi 2 anni, ma è un incremento progressivo che c'è stato, senz'altro dovuto alla situazione che abbiamo avuto negli anni precedenti e che ha creato sicuramente ansie e insicurezze da parte delle persone e che ancora non è risolta. Ecco. Quindi andiamo sempre di più in una direzione di questo tipo, quindi un aumento del consumo. Parliamo soprattutto di ansiolitici principalmente, ma anche antidepressivi e un po' tutti i farmaci che rientrano in quell'area cosiddetta degli psicofarmaci. È aumentata anche la richiesta di farmaci come paracetamolo e di antibiotici anche tra i bambini. Ancora Innocente. C'è stato un notevole incremento e ci sono state anche delle forme di carenza anche molto importanti per mesi su certi farmaci che sono stati esauriti velocemente le scorte. In calo, invece, le vaccinazioni anti-influenzali. L'anno scorso c'è stato un brusco calo e qui appunto chi di dovere dovrà porsi il problema. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Segnali incoraggianti dal terzo bilancio di genere dell'Università di Udine. I dati del 2021 confermano nella comunità studentesca la prevalenza delle studentesse, oltre il 53% del totale degli studenti. Le donne hanno una performance di studio migliore, una maggiore propensione alla mobilità in programmi di studio internazionali. Prevale la componente femminile anche fra gli studenti con cittadinanza non italiana, che sono il 4,4% della popolazione studentesca totale. Il valore dell'indicatore di Glass Ceiling, che misura la probabilità per le donne di raggiungere i massimi livelli di carriera, a Udine è di 1,35, nettamente migliore rispetto alla media nazionale 1,49, quando il parametro è pari a 1, indica una condizione di equità tra i generi. Il bilancio di genere è strutturato in 5 parti. Le prime 3 riguardano la comunità studentesca, il personale docente e ricercatore e il personale tecnico e amministrativo. La 4ª analizza la composizione della governance dell'Ateneo. La 5ª fornisce una visione d'insieme. Il dato più critico riguarda ancora la forbice delle carriere, che evidenzia la maggiore difficoltà delle donne rispetto agli uomini di ricoprire posizioni apicali. Complessivamente, infatti, le professoresse ordinarie sono il 25% del totale dei professori ordinari. veterinari. Le associate sono il 35% degli associati e le ricercatrici sono il 40% del totale dei ricercatori. Rimane ancora molto bassa la percentuale delle studentesse iscritte a corsi di laurea delle discipline scientifico-tecnologiche, STEM, 1 su 4 gli iscritti. La Polizia di Stato ha annunciato l'avvio delle vendite del calendario 2024. Si può prenotare il calendario da parete al costo di 8 euro, il calendario da tavolo al costo di 6 euro entro il prossimo 21 settembre, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 745000 intestato a Comitato Italiano per l'UNICEF. Sul bollettino dovrà essere chiaramente indicata la causale, calendario della Polizia di Stato per il progetto Nigeria per ogni bambino e bambina un futuro, che migliorerà l'accesso all'istruzione, garantirà la sicurezza delle scuole e amplierà le infrastrutture scolastiche del paese. Copia dell'attestazione del versamento dovrà essere presentata all'ufficio relazioni con il pubblico della questura di competenza. Comincia domani la 17ª edizione del Gno Orte, ormai storica mostra regionale delle varietà orticole e frutticole degli orti di casa. L'appuntamento è dalle 10 al tramonto a Villa Sulis, località costa di Castelnuovo del Friuli, ma già stasera dalle 14 alle 18 saranno consegnati i campioni per la mostra concorso. Abbiamo parlato con Costantino Cattivello, agronomo dell'ERSA, che figura tra i relatori, e gli abbiamo chiesto se questa stagione di forti piogge e alte temperature abbia fatto bene o male agli orti. Complessivamente male. Le piante, come noi, preferiscono un clima, diciamo, prevedibile, con cambiamenti non repentini. Le piante non sono adattate a questi eventi estremi. È un adattamento che può avvenire nell'arco di millenni, ma non nell'arco di qualche anno. Per cui abbiamo, in termini generali, spesso una riduzione di produzione, perché molte piante soffrono di temperature troppo alte. Ad esempio, tutte le leguminose, fagioli e così via, con temperature stabili al di sopra di 32-34 gradi, diminuiscono la fertilità. È un esempio dei tanti. Le forti piogge hanno portato con sé molti attacchi parassitari, e quindi magari piogge unite a grandine hanno determinato delle ferite nelle piante che sono state delle autostrade per molti parassiti che hanno attaccato piante, dando luogo anche a problemi di difficile gestione, soprattutto nell'orto familiare. Ci sarà qualcosa di buono? Qualcosa sì, nel senso che per certe produzioni le elevate temperature portano a un aumento, ad esempio, del grado zuccherino. Penso ai pomodori, penso ai meloni, anche alle angurie, che a fronte di una minore produzione hanno raggiunto buoni livelli qualitativi, perlomeno nel periodo in cui non ci sono state piogge. Gli spettacoli, ora iniziata da Pordenone, la tournée della Mahler Jugend Orchestra, che con il capoluogo della destra Tagliamento ha stabilito un solido legame. Scrivere una sinfonia è come costruire un mondo, è il credo artistico di Gustav Mahler, espresso alla fine dell'Ottocento e al quale il compositore rimase fedele fino ai suoi ultimi anni. Ed è davvero un mondo sterminato, la Nona Sinfonia. 1 ora e 20 di emozioni contrastanti, di paesaggi sonori che mutano, dalle esplosioni a piena orchestra ai dialoghi fra i singoli strumenti, con una libertà formale che nasconde una struttura complessiva solidissima. A proporla al pubblico di Pordenone, l'orchestra giovanile fondata da Claudio Abbado, che di Mahler porta il nome, formazione che raduna i migliori strumentisti under 26 del vecchio continente, una sorta di vivaio per tutte le orchestre internazionali di primo piano e che ha stabilito con la città un legame ormai solidissimo. Il concerto di ieri sera al Teatro Verdi sotto la direzione di Jakub Hruscha, che sta per assumere la direzione del Covent Garden a Londra, la chiusura ideale della residenza artistica dell'Orchestra Giovanile Mahler a Pordenone, cominciata il 3 di agosto, ma anche la tappa di una tournée che porterà i musicisti nel giro di una settimana da Salisburgo a Dresda, a Berlino, ad Amburgo, fino al Concertgebouw di Amsterdam. Entusiastica l'accoglienza, sala piena fino a tutta la prima galleria e applausi interminabili alla fine, da un pubblico in arrivo per il 70% da fuori città, con numerose presenze dall'estero. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora musica con la tecnica con cui vengono costruiti gli strumenti musicali. Officina dell'Arte, rassegna curata da Legno Vivo, porta gli utai artigiani della musica a Malborghetto Valbruna per 2 giorni di incontri, laboratori e concerti. Dalle 16 alle 21 di oggi e di domani si parlerà di come si costruisce un archetto per violino o del restauro di un pianoforte. A Davide Fregona, direttore di musica e che ha promosso l'iniziativa, abbiamo chiesto di parlare di come questa attività antica riesca a essere sempre innovativa. L'arte della liuteria e dell'artigianato per la costruzione degli strumenti musicali ha avuto sicuramente un'evoluzione, in quanto la tecnologia, il laser, il computer permettono oggi di arrivare al massimo della perfezione per la costruzione di strumenti musicali in legno. Tuttavia la parte fondamentale del lavoro è basata sulla manualità e comunque a monte c'è sempre la scelta del legno, ad esempio, che è fondamentale per il risultato finale. L'amore, la passione e anche la precisione che si fa solo attraverso un lavoro manuale ha una notevole importanza per il risultato finale. Ci sono dei giovani che vogliono imparare quest'arte? Certamente ci sono dei giovani, e i giovani forse sono la parte più all'avanguardia perché nascono oggi, però hanno colto così l'eredità, il sapere dei grandi maestri e hanno introdotto alcune soluzioni alternative. Ad esempio nelle forme, io penso ad esempio agli utensili di chitarra, non tanto di strumenti quali il violino, ha introdotto delle nuove soluzioni per la sagoma dello strumento e anche altre soluzioni di tipo artistico ma anche visivo che hanno migliorato anche l'acustica dello strumento. È vero che con vaia e con altri problemi ci sono stati anche dei problemi a catena per trovare il legno giusto per realizzare strumenti musicali? In parte è anche vero, ma in realtà il fenomeno della liuteria di per sé non ha avuto grandi ripercussioni. Certamente oggi è molto attuale l'argomento perché la nostra coscienza e tutti gli appassionati, ma non solo, hanno una maggior consapevolezza dell'importanza di questo legno, degli abeti di risonanza in particolare e comunque dei boschi. Andiamo adesso allo sport, al calcio. Prende il via oggi il campionato di Serie A. Per l'Udinese il fischio d'inizio però è domani sera, quando il Friuli incontrerà la Juventus, avversario dell'ultima partita della scorsa stagione, e la città intanto si prepara. Riparte il campionato e l'Udinese ritrova la Juventus, la stessa squadra con cui aveva chiuso la scorsa stagione. L'ambizione è di ritornare nella metà sinistra della classifica e magari andare anche un po' più su. E per la partita inaugurale i tifosi, anche grazie al calciomercato, non vedono impossibile il colpaccio. Cosa vi aspettate? Che sia una bella partita, no? Che vinca l'Udinese, quello mi aspetto. Sono gli Udine e voglio che vinca l'Udinese. La prima partita con la Juventus è un po' ostica la partita, diciamo così, però essendo la prima del campionato tutto può essere, quindi l'Udinese potrebbe anche fare il risultato. Ma io spero bene, di solito quando comincia il campionato parte bene, poi bisogna vedere in seguito. Una squadra con i piedi per terra, prima salvarsi, poi scalare la classifica, questo è il campionato che ci si aspetta, ma se si osa c'è chi spera anche in qualcosa di più. Sogna l'Europa? Sì, ovviamente la sogno, perché io da tifoso che seguo l'Udinese da 40 anni più, da 50 anni, ero bambino, ho avuto il privilegio e la fortuna di poter vedere la mia squadra in Europa e da allora le aspettative si mantengono. La città è bianconera, ma sotto gli stessi colori c'è qualcuno per cui batte un cuore juventino. Io ho sempre fatto, quando ero all'abbonamento e poi ho avuto anche tutti i bar dello stadio, sempre tifato, però mi sento juventino. Forza Juve, speriamo bene quest'anno, dai. Vi compri il biglietto per la Juventus? Certo che sì, certo che sì. Siamo di famiglia juventina. Intanto gli abbonamenti hanno superato quota 13.000 e i biglietti per la partita sono sold out da giorni. A quanto pare l'Udinese è qualcosa di importante. È una bella squadra, e speriamo da 1 a 10, diciamo 7, dai, 7, 7 e mezzo. È una bandiera per noi, no? Insomma, penso di parlare a nome di tutti i friulani di cuore bianco-nero. È importante per l'Udinese? Beh, insomma, certo che è importante, ci rappresenta. Beh, 9. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamo di basket regionale, una corsa a tre che sta per partire. La stagione è iniziata da qualche giorno con filosofie diverse. Le tre regionali del basket hanno iniziato il lavoro a domicilio nei palasport di casa, ma questo per ora è l'unica cosa che unisce la Trieste in cerca di rinascita, l'APU che vuole il riscatto e Cividale in cerca di conferme per essere molto più di un semplice terzo polo. Proprio i Ducali, i primi a cominciare, hanno l'agenda più tradizionale. Pillastrini aveva a disposizione addirittura un doppio ritiro per cementare un gruppo nuovo e per scelta addirittura senza stranieri fino al ritorno dell'oriundo Redivo dagli impegni con la nazionale argentina. La Gestecco, dopo una settimana intera in terra longobarda, si sposterà a Lignano dal 25 agosto al 2 settembre. Nel palasport della località balneare effettuerà il primo torneo contro Forlì, Vigevano e Trieste. Poi i gialloblu saranno in Carnia, a Sutri e Paluzzo un'altra settimana per preparare il primo appuntamento ufficiale con il girone regionale, dove ci sarà ovviamente anche la nuova Old Wild West di Adriano Vertemati. La truppa, l'unica al completo, dopo i primi giorni al Carnera starà stasera a Lignano per la presentazione ufficiale di alle ore 20, quindi andrà a Tarvisio fino a domenica, di ritorno amichevole a porte chiuse contro una squadra di college americano, quindi il Memorial Paietta Udine contro la Torino di Franco Ciani, la Fortitudo Bologna e i croati del Depolnik. Infine Trieste, che non si muoverà dal palasport di Via Flavia. I giuliani debutteranno nell'impianto già questo martedì in amichevole contro Brigham Young, college americano, mondo da cui proviene il nuovo allenatore Christian, che nel primo allenamento ha subito fatto vedere il suo credo, tanto lavoro con il pallone e centinaia di tiri da tre punti per tutti. Al gruppo manca ancora Reyes, portoricano impegnato in mondiali con la sua nazionale, sia ancora in attesa dello sponsor, sia per il nome del palasport, che sulle divise, che curiosamente, colori a parte, sono per ora identiche a quelle dei rivali udinesi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ai mondiali di atletica di Budapest, oggi in gara nei 1500 metri femminile, Sintay Ovis, atleta di Pozzecco di Bertiolo, tesserata per la Bruniera Friuli Intagli. Le batterie sono state posticipate di tre quarti d'ora a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla capitale ungherese e che ha rivoluzionato il programma di questa prima giornata di gare. Il campione europeo Zenwire, atleta sudafricano che gareggia per l'Italia in virtù del nonno triestino, è in finale nel lancio del peso 21,82, la sua misura. Vicenza inizio mese aveva fatto 22,15 nell'ultimo lancio, secondo italiano a superare il muro dei 22 metri dopo Alessandro Andrei nell'87 a Viareggio. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Mauro Cumin, in redazione Samantha Gon, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.